24 mattino. Sono le 8 e 16 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, c'è la mail alla quale potete scriverci, 24mattino@radio24.it, oppure gli sms al 349-238-6666. È il momento, come di consueto, di un po' di economia. Soldi e dintorni. E dunque ritorna qui Deborah Rosciani, ben ritrovata Deborah. Ben ritrovati anche a voi, grazie. Eccoci, buongiorno. Qua. Oggi parliamo di un tema davvero popolare, un tema molto caro a tutti noi italiani, a tutti noi consumatori, quello dei prezzi, dei beni di consumo. No? Esattamente, perché in realtà siamo partiti un po' da questo pretesto, c'è un anniversario, chiamiamolo così, che si celebra in questi giorni, il 15 gennaio di un anno fa, Antonio Lirosi, funzionario del Ministero dello Sviluppo Economico, a capo del Dipartimento per la Regolazione del Mercato, è stato nominato garante per la sorveglianza dei prezzi, vale a dire Mister Prezzi, una nomina che fece molto parlare di sé perché a Mister Prezzi fu assegnato il compito di vigilare sul corretto andamento dei listini e dei prezzi sul mercato in un momento in cui la crisi finanziaria cominciava a mordere, si stava verificando l'impennata dei prezzi delle materie prime con le conseguenze di cui ci siamo bene accorti tutti, visto che lo scorso anno l'inflazione è schizzata alle stelle e i prezzi di alcuni generi di largo consumo sono cresciuti in maniera eccessiva e in certi casi del tutto ingiustificata. Dottor Lirosi, ben trovato a Soldi e Dintorni, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Sì. Innanzitutto mi tolgo una curiosità, dottor Lirosi. Mister Prezzi, le piace come definizione o le dà fastidio, no? Mi sono abituato, ma devo dire che un po' di fastidio me l'ha dato. Un po' di fastidio gliel'ha dato. Sì, perché diciamo che l'hanno chiamata tutti così, si sono un po' scordati anche del suo vero nome. Dottor Lirosi... Anche perché porta su una pista sbagliata, cioè dall'idea di un soggetto, di una figura istituzionale che fissa il prezzo. In realtà non è così, insomma... Il compito è quello di fare luce e trasparenza sulle dinamiche, sugli andamenti, chiamare al senso di responsabilità i soggetti, quindi non è un'autorità amministrativa che riporta indietro la lancetta dei prezzi. E infatti, ebbene, allora ci racconterà se c'è riuscito anche a richiamare alla responsabilità alcuni soggetti che magari in questo anno non si sono comportati troppo correttamente e hanno un po' cavalcato l'onda inflazionistica che tutta l'economia mondiale ha subito. La sua prima indagine un anno fa, dottor Lirosi, è stata quella sulla carne, che aveva subito rincari, in particolar modo quella del pollo di circa il 10% rispetto all'anno precedente, poi il campo di azione si è allargato all'ortofrutta, al latte, le tariffe RC auto, ma soprattutto pane e pasta. A che punto sono le sue battaglie? Ah, guardi, quella del pollo in realtà c'era una gobba, diciamo un andamento asimmetrico che avevamo rilevato a febbraio dello scorso anno, dei prezzi al consumo ingiustificato rispetto al calo che era in atto alla produzione all'ingrosso. Devo dire che quella gobba sarà stato un caso, ma è rientrata, tant'è che si è passati da un indice di aumento dei prezzi che eravamo su intorno al 16,5% tra febbraio e marzo, l'ultimo dato, diciamo il pollo, è nell'ordine del 3%, 4%, quindi siamo assolutamente in sintonia con l'andamento di produzione ingrosso, anzi devo dire ultimamente l'ingrosso è un po' cresciuto ed è rimasto stabile al consumo. Anche perché, dottor Lirosi, mi chiedo quale potesse essere la tendenza macroeconomica che potesse in quella fase giustificare l'aumento del prezzo del pollo, va bene per pane e pasta, per le materie prime, ecco, per il grano, ma per il pollo effettivamente... Sì, si è scoperto che era, come dire, un contraccolpo dovuto alla crisi delle aviarie che c'era stato un anno e mezzo prima. Il prezzo era praticamente, si era azzerato, appena si è ripreso un po' il mercato il prezzo era schizzato, poi alla fine doveva scendere perché così stava avvenendo la produzione all'ingrosso, insomma, poi con una serie di riunioni, tavoli eccetera, poi insomma l'andamento del mercato è stato più o meno regolare. Mm-hmm. Pane e pasta, abbiamo già detto prima, forse hanno rappresentato il suo scoglio più duro. La scorsa estate, quando l'inflazione viaggiava a livelli record, eravamo ben sopra il 4%, lei aveva convocato pastai e panificatori al Ministero dello Sviluppo Economico perché non trovava più appunto giustificazione nell'andamento del mercato delle materie prime, che invece aveva già iniziato una fase di discesa. In quel momento, vi ricordo solo qualche prezzo, a Milano e a Bologna si verificò un prezzo del pane, venne registrato un prezzo del pane al chilo 3,60 euro, a Napoli 1,93 euro. Oggi a che punto siamo, dottor Lirosi? Guardi, intanto i primi 6 mesi ce la siamo cavata nella fase rialzista, perché tutto sommato l'indice generale prodotti alimentari e l'indice del settore cereale ha avuto un aumento dei prezzi assolutamente in linea con l'Europa. Da agosto, quando io ho iniziato a riscontrare i primi cali del mercato del grano, ho iniziato subito a convocare la filiera, perché bisognava fare in modo che ci fosse l'inversione di tendenza anche in fase di ribasso, prima con l'industria molitoria, perché bisognava calare il prezzo delle farine e delle semole che servono a produrre pane e grano, poi i pastai e i panificatori. Devo dire che c'è purtroppo la tendenza da parte dei produttori, qui questa volta i commercianti io li esento da responsabilità, che quando si arriva poi, si raggiunge un determinato livello dei prezzi nella prima parte oggettivo dovuto all'aumento delle materie prime, poi si fa fatica a abbassare il livello, ci si abitua a un certo livello dei ricavi. E così è successo nei mesi autunnali con l'industria della pasta, io ho convocato le più importanti marche, perché i loro listini industriali erano rimasti ai livelli in cui il grano era aumentato del 100%, mentre in realtà adesso abbiamo un calo del grano e anche della semola del 50%. A dicembre abbiamo stipulato un accordo con la grande distribuzione e la distribuzione anche i piccoli esercizi, e devo dire che qualche segnale c'è stato nel mese, in tutte le festività di dicembre, i prezzi al consumo, diciamo la pasta sullo scaffale, ha subito qualche ritocco, almeno c'è stato un tentativo di sconto e promozione. Ora mi auguro che i listini industriali delle grandi industrie di marca nei rapporti con la grande distribuzione possono essere rivisti a ribasso. Comunque anche l'Istat ha rilevato che a dicembre il prezzo della pasta dopo un anno ha registrato una minima variazione negativa. Una minima, purtroppo, perché c'è ancora una certa vischiosità. Magari sul tema della vischiosità ci ritorniamo, anche parlando un po' in senso generale del tema dell'inflazione nel nostro paese rispetto agli altri paesi europei. C'è però qualche considerazione per lei ai nostri sms? Sì, no, l'ascoltatore torna sul tema quello solito della benzina. Esatto. che è uno dei beni insomma più acquistati dagli italiani. Anche su questo si vuole qualche lume. No, tra l'altro dottor Lerosi credo che abbia attivato negli ultimi mesi controlli a tappeto con la collaborazione della Guardia di Finanza sul prezzo del metano da autotrazione in particolare, vero? Sì, guardi, proprio in questi giorni all'attenzione del Ministro il rapporto conclusivo dell'indagine conoscitiva che abbiamo condotto in alcune province e regioni con la Guardia di Finanza, dove i prezzi segnalati dagli automobilisti sono risultati più alti del resto d'Italia e pressoché allineati, omogenei tra le varie le stazioni di rifornimento. Quindi io non anticipo nulla perché è l'attenzione del Ministro. Stiamo seguendo tutto il settore dei carburanti, non allentiamo la presa, sia benzina e gasolio ma anche metano, GPL auto che si stanno diffondendo moltissimo. Devo dire che sui carburanti c'è molto da sfatare il luogo comune che la benzina non scende mai e che il prezzo è uguale dappertutto, così non si aiutano i consumatori. Noi abbiamo riscontrato che il calo della benzina è avvenuto più o meno in linea, con qualche giorno di ritardo, ma in linea con quello che è avvenuto in Europa. Dal 1 gennaio 2008 ad oggi il prezzo della benzina, io parlo di prezzo industriale perché poi il peso delle tasse varia da paese a paese, è sceso del 35% in Italia e nell'Unione Europea siamo 37,5, quindi c'è un 3% differenza che è 1,2 centesimi al litro. Il gasolio siamo lì, uno 0,5% differenza, quindi è sceso, e devo dire che c'è molta variabilità di prezzo tra una stazione di rifornimento e un'altra, si arriva anche a risparmiare 10 centesimi. È bene che i consumatori guardino bene i prezzi, guardino tra il prodotto servito, il self-service, tra le campagne di sconto che ci sono, perché si può risparmiare. Devo dire che per la prima volta sarà stata ovviamente la necessità dovuta alla straordinario rialzo, a luglio il prezzo della benzina a 1,5 euro al litro, si sono spostate anche quote di mercato, cioè il consumatore diventa più mobile, più attento al prezzo e quindi sceglie la marca e il distributore a seconda del prezzo, inizia a scendere. Questa è una sensibilità che per esempio in Germania e in Francia è diffusissima ed è una leva per stimolare la concorrenza. Quindi attenzione sulla benzina a ripresentare i soliti luoghi comuni, che non cala mai quando è diminuita, che il prezzo è uguale dappertutto. Però noi abbiamo una tassazione che ci penalizza un po' rispetto rispetto invece alle tendenze un po' più virtuose rispetto al resto sulla d'Europa. Sulla tassazione anche questo è un falso luogo comune. L'Italia come componente fiscale che sta ormai, perché è diminuito il prezzo intorno al 70%, è diminuito il prezzo della materia prima, siamo al di sotto della media europea. Solo la Spagna ha una tassazione più leggera della nostra rispetto a paesi come la Germania, la Gran Bretagna e la Francia. Alessandro, volevi fare al dottor Lirosi quella famosa domanda sulla nuova commissione parlamentare sui prezzi? Sì, mi ha colpito sul Sole 24 Ore leggere che è nata una commissione straordinaria per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e il controllo della trasparenza dei mercati. Al Senato c'è un presidente, due vicepresidenti, due segretari, 21 componenti. Insomma, dottor Lirosi, siamo il paese in cui si fanno sempre più enti per controllare e poi si è sempre in tanti e non c'è il rischio di sovrapporsi? Beh, guardi, io rispondo per me. Io sono da solo con 4-5 funzionari del Ministero, tra l'altro utilizziamo le risorse già disponibili dell'attività del vecchio Ufficio Osservatorio Prezzi del Ministero e quindi il legislatore, per quanto riguarda l'istituzione del Garante, ha voluto una struttura, non ha voluto un nuovo apparato, ma ha voluto una responsabilità de persona, ma non un dirigente del Ministero, il sottoscritto, e senza costi. Poi il Parlamento è sovrano, ha deliberato questo organismo. Per la verità la mozione era a maggio, fu presentata quando c'era il problema dell'inflazione, del rialzo dei prezzi, eravamo proprio in un periodo di crescita, di boom dei prezzi. Poi la decisione, la formalizzazione è arrivata in autunno, quando un po' l'interesse, il tema dell'inflazione si era sgonfiato per via del calo che c'è stato soprattutto del petrolio e dei carburanti. Quindi il Parlamento è sovrano, per carità, sì. Ha previsto questa istituzione, farà delle indagini, delle audizioni. Insieme a lei probabilmente, dottor Lirosi, grazie, certo. C'è collaborazione. No, la dobbiamo troncare brutalmente perché siamo fuori tempo massimo. La ringraziamo molto comunque per essere stato con noi, sicuramente torneremo a coinvolgerla nel nostro contenitore del mattino. Alessandro, io oggi a Salva Danaio rapidamente mi occupo di Alitalia, azionisti e vecchi obbligazionisti, che fine faranno? Bene. Le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, diamo uno sguardo alle ultime notizie. I carabinieri di Frascati hanno arrestato nella notte 5 rumeni accusati di avere violentato tra giovedì e venerdì scorso la giovane di 21 anni picchiando il suo fidanzato a Guidonia, vicino a Roma. Insieme ai 5 della banda sono stati fermati anche altri rumeni, le cui posizioni sono al vaglio della procura di Tivoli. La crisi è il settore auto, l'amministratore delegato della Fiat Marchionne dice: senza aiuti è reale il rischio che 60.000 lavoratori del comparto restino a casa. Domani il tavolo convocato dal governo. Oggi è la giornata della memoria, si ricordano gli ebrei vittime della Shoah. C'è polemica per la decisione del Vaticano di riabilitare i vescovi lefevriani, tra cui il negazionista Williamson. Il presidente delle comunità ebraiche Gattegna dice di aspettarsi un gesto dalla Chiesa cattolica. Infine sarà Mina ad aprire il Festival di Sanremo. La sentiremo e la vedremo, ha annunciato il conduttore Paolo Bonolis. Ed è il momento di sentire il commento del direttore del Sole 24 Ore proprio sulla giornata della memoria. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Buongiorno. Oggi è il giorno della memoria. Qualcuno si domanda perché ricordare ancora la lezione della storia, l'immane tragedia della Shoah, che vuol dire annientamento. Non l'abbiamo forse appresa del tutto? Dovremmo dire di no, se c'è ancora qualcuno che nega l'esistenza delle camere a gas, e non si tratta purtroppo solo di fanatici nascosti in internet, e se c'è ancora qualcuno che si dichiara apertamente antisemita, come dimostrato da un recente sondaggio pubblicato ieri. La memoria non può essere né un rito stanco né un'occasione di retorica vuota, e qualche rischio che sia così lo stiamo correndo, per la verità. Questa ricorrenza esiste solo da 10 anni. A lungo nel dopoguerra i sopravvissuti preferirono non parlare, come se si vergognassero, ma in molti casi non vennero ascoltati. Se questo è un uomo di Primo Levi, fu rifiutato da molti editori, uscì pressoché clandestino nel 1947 e poi dimenticato. La stessa opera fondamentale di Hilberg, La distruzione degli ebrei in Europa, rimase semi sconosciuta per decenni. 6 milioni di morti di cui gli storici si occuparono poco. Questo casomai deve far riflettere. Una buona memoria crea una migliore coscienza pubblica e ci rende cittadini più consapevoli di quello che siamo e siamo stati. Forse ci saremmo sentiti meglio se non avessimo saputo di un progetto non folle ma lucido di cancellare un intero popolo? I pregiudizi, gli odi e le incomprensioni nascono dall'ignoranza e dalla superficialità. Buona giornata. E grazie allora a Ferruccio De Bortoli che troveremo domattina. Io voglio ricordare tra l'altro che durante tutta la programmazione della giornata di oggi ricorderemo la giornata della memoria nei nostri giornali radio con diversi appuntamenti, così come in Jefferson 2 oggi pomeriggio alle 16 con Stefano Pistolini. E voglio ricordare che tanti audio, approfondimenti e anche interviste molto interessanti sono disponibili sul sito radio24.it. Noi andiamo alle 8:35 minuti a Lampedusa, perché Lampedusa è un'isola che sta ribollendo, c'è un grande fermento politico sul tema dell'immigrazione. Oggi il ministro dell'Interno Maroni vola a Tunisi per cercare di concludere un accordo con il governo tunisino per il rimpatrio di moltissimi migranti proprio tunisini che sono arrivati in questi giorni, nei giorni scorsi, a Lampedusa. Lampedusa che oggi si ferma per uno sciopero proprio contro il governo. Lampedusa, di cui saluto il sindaco Bernardino De Rubeis. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti voi. Senta, ma ieri lei ha fatto un annuncio, credo un consiglio comunale all'aperto, a dire denunceremo il ministro Maroni. Denunciare perché? Ma intanto il consiglio comunale, alcuni esponenti del consiglio comunale hanno deciso di denunciare il ministro per tutto quello che accade, che è accaduto all'interno di questa struttura, un centro che doveva servire per la prima identificazione, che in questi ultimi tempi è diventato un campo di concentramento. Si vedono anche le affermazioni, le testimonianze di molti immigrati che sono fuggiti e che ancora sono in giro. Sindaco, scusi se la fermo, può evitare di paragonare a un campo di concentramento il centro? No, perché sa com'è. Proprio oggi poi, no? Il campo di concentramento lasciamolo fortunatamente al passato, insomma. Un passato doloroso, certamente. Ecco, appunto, andiamo avanti. E quindi, voglio dire, lo denunciate perché? Ma lo denunciano perché effettivamente non ci sono le condizioni di vivibilità all'interno di quella struttura. Ma si vuole creare anche un altro centro, questo è il punto della discordia. Ieri abbiamo visto a porta che il ministro in modo molto chiaro ha detto a Lampedusa sta per nascere, ma lui dice è nato il primo dei 10 centri di espulsione che devono nascere nel territorio italiano. Il ministro ha deciso che Lampedusa è la meta giusta per poter scegliere quest'isola, un'isola turistica, come un centro di espulsioni. D'autorità l'ha fatto e stiamo a vedere quello che succederà nelle prossime giornate. Ma voi lo si vuole denunciare per violazione delle leggi sull'immigrazione? Credo che sia questo. Cioè con che basi lo si vuole denunciare, il ministro Maroni? Io non sono un avvocato, io mi limito a fare il sindaco. Ci sono gli avvocati che già hanno preparato per conto del Consiglio Comunale tutta una serie, diciamo, di affermazioni che poi verranno presentate nelle sedi opportune. Io mi limito soltanto a criticare quella che è l'azione del governo, un'azione alquanto discutibile, perché noi abbiamo dimostrato in tutti questi anni di essere un popolo tranquillo, accogliente, abbiamo accolto, continueremo ad accogliere fino a quando il fenomeno c'è e continueremo a contribuire con il nostro impegno e con le nostre sofferenze a dare un aiuto all'intera Italia, un'Italia che nel passato aveva gli immigrati in mezzo alle strade, alcune di loro a delinquere, a prostituirsi e quant'altro. Qui Lampedusa ha dimostrato e sta dimostrando di accoglierli, però nella maniera sperimentata. Li vogliamo solo qui per dargli da mangiare, per poterli vestire, e poi lo Stato deve garantire a questa gente che arriva qui in modo indisturbato quello che è il loro futuro. Ma cioè, mi scusi, mi faccia capire, cioè le persone che arrivano, molti fuggono da situazioni di conflitto, di guerre, quindi questi potranno fare una richiesta e avranno diritto nel caso allo status di rifugiati politici. Ma chi entra invece clandestinamente, nel senso via mare, arriva a Lampedusa, secondo lei cosa si dovrebbe fare? Bisognerebbe tenerli, bisognerebbe rimandarli ai loro paesi? Intanto tutti profughi arrivano in modo clandestino a Lampedusa, o meglio ancora, grazie agli eventi SAR operati dalle forze dell'ordine, Guardia di Finanza e Marina, giungono nelle nostre coste per essere assistiti. Quello che sarà il loro futuro lo deciderà il governo. Mi risulta che ci sono degli accordi bilaterali e pertanto si può avviare quella che è l'idea del rimpatrio, come mi risulta che in mezzo a loro, dove c'è guerre, e parlo degli eritrei, dei somali ed altre nazioni, c'è il diritto allo status di rifugiato. Ma questo faranno richieste. Io voglio salutare anche Salvatore Cappello, buongiorno, del comitato SOS Isole Pelagie. Buongiorno Cappello. Senta, l'abbiamo vista anche intervistata sul Corriere della Sera, ci spieghi che cosa fa la sua associazione. Mi ha un po' colpito vedere che lei anche gira con la sua jeep, con i suoi mezzi, per cercare di recuperare, insomma, degli immigrati che fuggono dal centro e farli rientrare nel centro. È così? Sì, è così. La nostra associazione nasce per sollevare i problemi lampedusani, che sono tanti e svariati. E nella seconda domanda che lei diceva, proprio in quei giorni le forze dell'ordine erano impossibilitate a fare questo, anzi non c'erano completamente, o meglio erano soltanto per noi, non per i clandestini, di cui i clandestini erano entrati in un ristorante, avevamo preso dei coltelli, e noi eravamo un 7-8 ragazzi con 4-5 macchine, che c'era anche a capo il sindaco, e siamo andati in giro a prendere i ragazzi e riportarli dentro. Ma come sindaco, lei è stato accusato in passato anche di avere fomentato, insomma, questa rivolta. Pare che dal governo ci sia stato, insomma, una volontà di denunciare invece lei per quella fuga di massa che c'è stata dal centro nei giorni scorsi. Ma purtroppo ormai il sindaco è la persona da distruggere, da demolire. Ormai c'è un disegno ben preciso da parte del governo, che c'è un sindaco che non consente al governo centrale di poter agire nel territorio di Lampedusa liberamente, siccome sta contestando e alla guida della contestazione, e allora si deve colpire, si deve accusare il sindaco, si deve denunciare il sindaco. Non siamo in uno stato di diritto. Addirittura, dice. Senta, vuole chiarire una volta per tutte quella frase che le è stata attribuita in un'intervista a Repubblica e che lei ha smentito? La voglio dire, la frase, me la lasci dire. In un'intervista a Repubblica, fatta tra l'altro a un collega, Giampaolo Visetti, che io conosco molto bene, stimo anche, che ho sentito e mi ha confermato che è tutto registrato, lei avrebbe detto: la carne dei negri puzza anche quando è lavata, figuriamoci quando sono sporchi in condizioni. Ecco, ci vuole chiarire? Ma certamente sì, intanto smentisco ancora una volta queste affermazioni che ha detto ieri sera la senatrice Maraventano, con quell'arroganza, con quella prepotenza. Ho assistito anche quella che era la posizione del ministro. Ma vedete, qui non c'è un discorso di puzzare o non puzzare. Intanto sono venute anche le Iene a dire questo, ma non l'hanno confermato. Io mi auguro che finalmente questa affermazione, che qualcuno mi dice che io ho avuto modo di esternare, me la provino una volta e per sempre. M'ho detto anche che in 3 ore di discussione, nel momento in cui il sindaco, un uomo che può anche sbagliare, poteva affermare, ma non l'ha fatto, un'affermazione così pesante, ho detto chiederò scusa a tutto il mondo, l'ho detto parecchie volte, l'ho detto al Papa, l'ho detto agli immigrati. Io opero da 18 mesi quale sindaco di questo comune, ma ho 40 anni e la mia storia di cattolicesimo, di uomo praticante, di ex seminarista, di padre di famiglia è risaputo da tutti. Qua si vuole strumentalizzare con delle fantasie nate grazie a un disegno diabolico da parte di questo governo, da parte di questa componente di leghisti, razzisti. E dire che, mi scusi, lei ha citato la senatrice Maraventano, lo vogliamo ricordare, la senatrice Maraventano è lampedusana, è leghista ed è stata fino a pochi giorni fa il suo vice sindaco, fin quando avete litigato in maniera furibonda, insomma siete veramente arrivati a una singolar tensione, si può dire, no? Adesso è tutto finito, insomma, adesso ne parla malissimo, ma fino a poco fa stavate seduti uno a fianco all'altro. Purtroppo l'unico errore che io ho fatto in 40 anni è aver dato l'incarico a questa donna senza scrupoli, l'incarico di vice sindaco, vicario del sindaco. È stato un errore, lo dimostra il fatto, quello che ha detto ieri, con quell'arroganza, con quella falsità. Lei ormai ha dimostrato di essere schiava della Lega Nord e ha tradito l'isola di Lampedusa e il popolo di Lampedusa. Va bene, va bene. Insomma, staremo a vedere oggi che giornata sarà. Una giornata di 12 ore di sciopero. Ieri c'è stata anche qualche tensione a Marina di Massa quando un gruppo di in questi casi richiedenti asilo politico, perché sono fuggiti da zone diverse come Sudan, come il Congo, come l'Eritrea, come la Somalia, zone dove ci sono conflitti in corso, sono andati per le strade e c'è stata qualche tensione. In quel caso, ripeto, è una richiesta legittima di status di rifugiato, ma la burocrazia purtroppo è troppo lenta, i tempi sono troppo lunghi. Ringrazio il sindaco di Lampedusa, Bernardino De Ruweis, e Salvatore Cappello. Le 8:48 minuti, anche ieri a Milano, 200 manifestanti hanno manifestato sotto il comune per protestare contro lo sgombero che è avvenuto fine settimana scorsa, di un centro sociale storico, il Cox 18 di Via Conchetta a Milano. Non è tanto un tema locale, voglio dire, il tema può essere allargato. Io voglio salutare il vice sindaco di Milano, Riccardo Decorato. Buongiorno vice sindaco. Buongiorno. Senta, l'abbiamo chiamata perché ci ha colpito, c'è stata anche una manifestazione sabato scorso, ci sono stati credo 120.000 euro di danni stimati, insomma qualche tensione tra i manifestanti che non volevano lo sgombero e la polizia, vandalismi. Mi ha colpito quello che è stata la proposta, insomma paghino i partiti che erano in piazza, paghino gli organizzatori per questa manifestazione. È questa la linea del comune? Sì, la linea del comune è questa, tenendo conto che noi non possiamo applicare nessuna disposizione di legge, ma io ho presentato alla Camera una proposta di legge che prevede per cortei di questo tipo che i percorsi vengano ripresi da una webcam prima del corteo e poi dopo il corteo. E tenendo conto delle vie e dei luoghi storici che attraverso un corteo, si debba depositare una somma preventiva presso la tesoreria provinciale da incassare ovviamente nel caso di danni come quelli che si sono verificati sabato scorso. Cioè chi vuole fare un corteo, una manifestazione, dovrebbe, se passasse questo progetto di legge, depositare una cauzione, a dire se succede qualcosa... Per i danni al patrimonio pubblico, sì, certo. E anche privato. Però la responsabilità dei partiti, cioè si è detto c'era Rifondazione, alcuni esponenti di Rifondazione Comunista paghino loro, cioè voglio dire, se uno prende un responsabile che sta distruggendo una vetrina è giusto che paghi, e ci mancherebbe altro. Ma durante i cortei questo è quasi impossibile, la polizia è impedita ad intervenire perché sennò determinerebbe incidenti, scontri ed altro. Infatti noi abbiamo già avuto modo di farci rimborsare come comune i danni di un corteo del My Day Parade del 1 maggio del 2004, sono stati condannati a risarcire il Comune di Milano per scritte, danni procurati a vetrine, a muri da parte di imbrattatori che in questi cortei sono una buona maggioranza. Quindi lì è successo, cioè sono stati presi e sono stati condannati. Però in sede di risarcimento, come ci siamo costituiti parte civile come comune, qui si prevede una cauzione, cioè preventiva. Nel momento in cui si chiede alla questura un corteo, gli organizzatori depositano una cauzione. Resta un problema, che quello di sabato scorso non era un corteo organizzato. Nessuno ha chiesto autorizzazione in questura, si è permesso a circa 5.000 persone di sfilare senza nessuna autorizzazione e di devastare metà del centro di Milano, senza che nessuno abbia dato un'autorizzazione a quel corteo. È qui che in questo caso, cioè, come varrebbe la sua proposta? Perché lei dice chi si va a prendere? In questo caso chi viene identificato, come è stato per sabato scorso, per esempio sono stati identificati già dalla Digos e dai Carabinieri una decina di persone, nei confronti di questi non ci resta che costituirci parte civile e presentare il conto delle vetrine rotte, dei cestini porta rifiuti rovesciati e bruciati, delle scritte che sono state fatte sui muri storici, perché il corteo ha attraversato la parte più storica di Milano, da Porta Ticinese fino a Piazza Duomo, presenteremo il conto a questi signori quando inizierà diciamo il dibattimento e quando inizierà l'azione penale. E su questo insomma è quello che abbiamo detto, però vice sindaco, mi ha colpito l'idea, credo dell'assessore Cadeo, a dire c'erano anche dei rappresentanti politici in piazza che paghino, mi pare di aver letto proprio sulle pagine locali, che paghi per esempio Rifondazione Comunista, perché Rifondazione Comunista visto... ha aderito alla manifestazione ufficialmente con dichiarazioni pubbliche fatte dai responsabili cittadini. Quindi secondo lei dovrebbe essere ritenuta responsabile. Allora secondo lei chi paga i danni? Il povero cretino che negoziante o povero cittadino che si è visto imbrattare le vetrine e i muri del proprio stabile? No, ma infatti io l'abbiamo invitata per questo. Io a lei la domanda. No, dovrebbe pagare? Il poveretto che ha avuto danneggiamenti durante un corteo non autorizzato, che non era manco autorizzato dalla questura e che ha visto danneggiati le proprie vetrine, i propri muri, addirittura sono entrati in alcuni negozi rubando con espropri proletari, ritornando un po' agli inizi degli anni Ottanta, cioè si è ripetuto uno scenario, questo per dire la bontà di questi frequentatori del centro di via Conchetta, tutte persone molto per bene, che entrano nei negozi, rubano, asportano merci, imbrattano muri, rovesciano cestini bruciandoli, ecco, tutta gente con la quale ogni giorno ci invitano ad aprire un Infatti, vice sindaco, l'abbiamo chiamata proprio per questo, perché la proposta è discutibile, siamo qui a discuterne, però è interessante, cioè dire, visto che Rifondazione Comunista era in piazza, ha aderito con dichiarazioni, esatto. Insomma, si ritenga responsabile, se no non sappiamo chi far pagare. Questo la responsabilità ce l'hanno anche i centri sociali, per carità, ma uno dei responsabili è Rifondazione che ha aderito ufficialmente alla manifestazione. Perfetto, io vice sindaco la ringrazio per essere stato con noi, il vice sindaco di Milano Riccardo De Corato, un tema caldo, so che anche da oggi, insomma in questi giorni ci saranno anche altri sgomberi di altri centri sociali a Milano. Ci fermiamo qui ringraziando Laura Marchesi e Alessandro Marcotulli in redazione e Carmelo Lauricella in regia. Vi voglio ricordare dopo GR24 c'è Giuliano Ferrara con Parliamo con l'Elefante, oggi si parla dell'archivio Genchi, se c'è se non c'è, con Genchi stesso tra l'altro, il caso intercettazioni insomma. E allora a tra poco con Giuliano Ferrara, noi invece ci ritroviamo domani, la mail alla quale scriverci 24mattino@radio24.it. a domattina.